Nakomona, Nakatale, yo carisa kangai. Braza yo kovanda gai naleo, Babito carisa gai. Babito salama kasi yo zonga nakatiale yo. Yes.